grande amore, sotto la cenere c'è un cuore che brucia ancora. Tu tornerai sulla mia via, t'aspetterò, dimmi quest'ultima bugia. Porta di giorni che vivrò senza te, l'importante è che torni da me. Non si può spegnere l'amore, un grande amore, sotto la cenere. Dei giorni che vivrò senza te, l'importante è che torni da me, non si può spegnere l'amore.